L'assessore Briano probabilmente non è molto informato. Ieri, diciamo, tra l'altro, insomma, ci conosce bene l'assessore. Ieri ha mandato alla stampa questa nota molto stizzita in cui, diciamo, ovviamente ribadiva i dati dell'ARPAL, dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Liguria, che noi ovviamente non contestiamo assolutamente. Quelli sono i dati ufficiali per certificare la balneabilità del mare della Liguria. Noi facciamo un lavoro diverso, sarebbe anche sciocco replicare un lavoro che l'agenzia regionale fa, previsto per legge, con, come dire, i giusti fondi che ovviamente noi da associazione di cittadini non abbiamo. Il mar della Liguria ha rilevato 15 di questi punti critici. Va benissimo che il 97% delle spiagge della Liguria siano balneabili, ma questo, ripeto, non lo mettiamo in discussione, ma nessuno può mettere in discussione che abbiamo rilevato 15 tratti di costa in Liguria dove abbiamo trovato batteri di origine fecale. Del resto questi dati, no, diciamo, i dati di Goletta Verde sono confermati non solo dall'Istat, che insomma ricorda come il 39% degli abitanti equivalenti della Liguria non sono adeguatamente depurati, ma noi siamo stati condannati il 18 di luglio dalla Corte di Giustizia Europea per non aver rispettato la direttiva sul trattamento delle acque reflue del 91, di 109 comuni o aggregati, diciamo, agglomerati urbani al di sopra dei 15.000 abitanti che sono citati nella sentenza di condanna, 9 sono in Liguria, quindi insomma c'è un problema